Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, quinta puntata di Mr. Kilowatt. Questa sera affrontiamo non un caso specifico di risparmio energetico, ma un tema un po' più generale. Lo faremo ogni tanto per cercare di inquadrare le molte soluzioni di cui parleremo in un contesto un po' più ampio. Il tema è quello della sufficienza energetica. Come sapete, generalmente si parla di efficienza e difatti l'efficienza è un concetto chiave del risparmio energetico. Tuttavia, in alcuni casi può nascondere, per così dire, delle trappole concettuali. Quali? Lo chiediamo a Lorenzo Pagliano, docente di fisica degli edifici e direttore di EERG, gruppo di ricerca del Politecnico di Milano, sul risparmio energetico negli usi finali. Buonasera Pagliano. Buonasera. Dunque, mi sembra il caso di cominciare a spiegare che cos'è l'efficienza per un fisico, per un ingegnere, un po' al di fuori di quello che è il senso comune. Wow. Si potrebbe definirla come il rapporto tra l'effetto utile che si ottiene da un certo sistema, macchina o un sistema in senso più ampio, diviso la spesa energetica per ottenere quel risultato. Ovviamente bisogna definire bene il sistema e l'obiettivo. L'effetto utile potrebbe essere lo spostamento della mia persona, 65 kg, da un luogo ad un altro. Oppure l'effetto utile può essere lo spostamento della mia persona più un'auto di un certo peso e nei due casi l'energia spesa sarà molto diversa. Se la mia 65 kg si spostano con una bicicletta, ovviamente il peso totale da spostare è minore che nel caso che io mi stia spostando da solo con una grande e pesante automobile. Ok, ecco, quindi cosa si intende? Mi sembra che ci stiamo arrivando naturalmente per sufficienza. A quel punto diventa il passo precedente dello scegliere magari il tipo di sistema che vogliamo utilizzare, il che cosa fare, prima ancora del come farlo, con che efficienza, con che rendimento della macchina. E quindi lo spostarsi con un mezzo pubblico o con un mezzo privato a motore, l'avere un'apparecchiatura di piccole dimensioni o di grandi dimensioni, quindi adatta allo scopo o sovradimensionata, questo ha a che fare con la sufficienza dell'oggetto rispetto agli obiettivi che abbiamo. Ecco, facciamo allora qualche esempio di trappola, cioè quei casi in cui l'efficienza e la sufficienza non coincidono e anzi magari sono un po' agli antipodi. Ma sì, ovviamente per molte apparecchiature abbiamo delle definizioni di efficienza e delle etichettature che appunto guardano soprattutto all'efficienza più che al consumo totale, quindi noi nell'acquistare, nello scegliere un nuovo frigorifero spesso ci viene proposto, messo in primo piano l'etichetta, è un classe B, l'etichetta energetica è un classe B, è un classe A, è un classe A+, quindi l'efficienza per litro refrigerato, qualcosa del genere. Ma ancora più importante è il consumo totale, che tiene conto sia del consumo per litro sia della dimensione dell'oggetto. Il numero importante per noi alla fine del mese è quanti kilowattora consuma quell'oggetto come combinazione della sua efficienza e della sua dimensione. Ecco, perché tipicamente i frigoriferi, non l'abbiamo detto, ma più sono grandi e più sono efficienti, perché hanno un rapporto favorevole volume-superficie e quindi uno potrebbe essere tentato di prendere per la casa di montagna dove usa il frigo un mese all'anno un grande frigorifero perché è più efficiente, ma in realtà consumerà molto di più in quel modo. Sì, un po' il rapporto superficie-volume è considerato nell'etichetta, però diciamo che senza arrovellarsi troppo il vero modo effettivamente è quello di guardare sull'etichetta, ci deve essere, se è esposta in modo completo, anche il consumo totale in un anno. Un altro esempio è quello della lavatrice per i panni, lì è ancora più evidente il fatto che l'aumentare della capacità in chili di bucato che possono essere trattati per ogni ciclo aumenta proporzionalmente il consumo, quindi una lavatrice da 6 kg consuma il doppio di una da 3, perché utilizza il doppio di acqua, deve scaldare il doppio di acqua, quindi lì scegliere la dimensione giusta è assolutamente importante, a meno che la lavatrice abbia dei sistemi per ridurre la quantità di acqua o con un bottone di mezzo carico o con una pesatura del bucato e quindi la scelta dell'acqua in funzione della quantità di bucato, ma questo non è incluso nell'etichetta, quindi uno potrebbe avere una macchina che ha un'etichetta A ma che non ha questi sistemi intelligenti per ridurre la quantità di acqua e quindi in realtà se è grande consuma molto di più di una piccola macchina. Grazie Pagliano. Siamo in chiusura, ancora un paio di consigli prima di lasciarci, sempre in tema di sufficienza. Primo, un buon ventilatore da soffitto, meglio se dotato di motore ad alta efficienza, permette di abbassare di qualche grado la temperatura percepita, consumando, pensate, un cinquantesimo di un sistema di condizionamento. Ricordatelo. Secondo, tenete presente che l'elettrodomestico forse più sprecone, passatemi il termine, è l'asciugatrice elettrica. In questo caso il principio di sufficienza suggerisce di farne proprio a meno e ricorrere alla stesura dei panni all'aperto o in un locale ben areato, magari servendosi delle previsioni del tempo per pianificare il bucato, scegliendo un giorno di sole e anche una lavatrice con alta velocità di centrifuga, che è enormemente più efficiente del riscaldamento elettrico per rimuovere l'acqua dai panni. Vi dico solo che in America, dove in molti luoghi è vietato stendere i panni all'aperto, sta nascendo un movimento per il diritto di asciugare. Pensate un po'. Questo è davvero tutto. La prima settimana di Mr. Kilowatt si chiude qui. Vi ricordo di scrivere a mrkilowatt@radio24.it segnalandoci particolari casi di spreco oppure di risparmio energetico. Noi ci risentiamo lunedì. Parleremo di microidroelettrico.